Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Stiamo finendo proprio in questi giorni delle verifiche e poi attueremo anche dei provvedimenti conseguenti. Siamo sull'ordine di 300-350 e quindi gli toglieremo la residenza. 300 italiani con falsa residenza a San Marino, 300 potenziali evasori fiscali che tra poco perderanno la copertura della Repubblica del Titano. L'onda lunga degli scandali, delle inchieste e degli arresti della scorsa primavera ha portato ad accelerare i tempi di questo giro di vite che per diverse centinaia di falsi residenti significherà la cacciata da questo piccolo paradiso a fiscalità agevolata. Lo annuncia lo stesso ministro delle Finanze di San Marino, Gabriele Gatti. Questa intervista ripercorre le tappe dell'indagine che si è abbattuta sul Delta, critica l'Italia per la mancata firma sull'accordo bilaterale, ma parla anche dei passi in avanti fatti nell'antiriciclaggio e dei rumors di un rischio crack per il Titano. È un rischio assolutamente che non esiste. San Marino, come tanti altri paesi, si trova sicuramente in un momento di difficoltà, ma il bilancio dello Stato è un bilancio solido, è un bilancio di un paese che tra l'altro non ha debito pubblico, quindi è un rischio che non esiste. Di sicuro per voi dalla scorsa primavera in poi intorno a San Marino c'è stata una bufera, cominciata con una bufera giudiziaria che poi è coincisa anche con un terremoto di tipo fiscale, finanziario? È stato un anno molto pesante quello che è passato. Direi che è partito tutto dal fatto che San Marino è entrato nelle misure rafforzate del Moneyval, quindi a livello internazionale ha avuto delle problematicità e poi è continuato con alcuni, chiamiamoli, scandali che hanno riguardato in modo particolare l'asset bank, la cassa di risparmio, l'incriminazione del vertice, quindi della cassa di risparmio. Direi che oggi ci troviamo in una situazione sicuramente migliore, anche se poi il livello della polemica su San Marino ancora non è terminato. Il Moneyval ha dato atto dei nostri progressi. Il Moneyval è un organismo del Consiglio d'Europa che valuta il livello di affidabilità delle normative dei vari stati per quanto riguarda la lotta al riciclaggio. Proprio un mese fa siamo rientrati fra i paesi per bene, fra virgolette. Abbiamo firmato gli accordi previsti dall'OCSE per uscire dalla lista grigia dell'OCSE, quindi oggi a livello internazionale San Marino si è riallineato. Per quanto riguarda alcune problematiche come quelle relative alla fiscalità, siamo in attesa della firma degli accordi con l'Italia, gli accordi finanziari di doppia imposizione che crediamo dovrebbe avvenire a giorni, è stata già raggiunta l'intesa ormai da alcuni mesi. Ecco, adesso andremo anche su questo un po' più nel dettaglio per ripercorrere anche le tappe degli ultimi mesi. Lei ha fatto riferimento alle normative antiriciclaggio. Sono stati firmati, e bisogna darvene atto, se non erro, 39 provvedimenti sulla lotta al riciclaggio. Resta però l'immagine di San Marino come uno degli approdi anche dell'evasione fiscale italiana. C'è dubbio che a livello d'immagine, proprio a livello reputazionale, San Marino ha avuto dei danni notevoli negli ultimi mesi. Noi abbiamo fatto veramente il possibile negli ultimi mesi. È chiaro che l'onda lunga della polemica sui piccoli stati, i paradisi fiscali, la mancanza di trasparenza comunque rimane. Però ecco, non nascono dal nulla certe considerazioni, non è forse un caso che anche una serie di indagini anche finanziarie degli ultimi anni hanno confermato un certo trend di spostamento anche attraverso i più tradizionali sistemi tipo gli spalloni. Cioè, per un po' di tempo San Marino aveva un po' l'idea dell'essere l'approdo sicuro, l'asilo sicuro per i soldi, come compariva anche in un sito ufficiale di San Marino. Se noi andiamo a guardare l'economia di San Marino, tra l'altro proprio in questi giorni c'è il Fondo Monetario che fa un'analisi approfondita di tutta la nostra economia, poi redige un rapporto. Noi il settore bancario e finanziario non raggiunge il 20% di tutto il prodotto interno lordo. Questo settore noi oggi lo stiamo cambiando, abbiamo degli organismi di controllo oggi molto molto efficienti, molto rigorosi. Poi teniamo presente che parliamo di 12 banche a San Marino. Questo non vuol dire che noi vogliamo minimizzare, vuol dire che San Marino sta facendo un percorso che a livello internazionale ci è stato riconosciuto da tutti. Speriamo che anche nelle relazioni con l'Italia possa essere riconosciuto quello che San Marino sta facendo. In sostanza San Marino non vive, insomma, di investimenti loschi, ecco. Il problema dell'evasione è un altro discorso, anche se noi però dobbiamo considerare che poi anche i depositi delle nostre banche in gran parte sono depositi sammarinesi, non sono depositi italiani, insomma, difatti anche lo scudo, nonostante questa azione così pesante anche della stampa italiana, del Ministeri, della Guardia di Finanza, insomma lo scudo dà quello che può dare, perché poi San Marino i depositi degli italiani sono piccoli. Avete calcolato quanto potrebbe uscire con lo scudo fiscale, quanto casomai anche già è uscito dalle vostre casse per rientrare con lo scudo? Noi facciamo un monitoraggio quotidiano, attualmente sono stati scudati circa 1.200.000.000, questi sono dati proprio reali, di mercoledì 18, ecco. Fare delle previsioni di qui alla fine dello scudo è difficile, però realisticamente questa cifra potrebbe essere raddoppiata, ma non certamente di più. Questo drenaggio di liquidità dalle vostre casse potrebbe avere, secondo lei, delle ripercussioni? Noi già da molti mesi ci siamo attrezzati, la Banca Centrale aveva fatto proprio degli stress test con le banche già 6 mesi fa, per prepararsi, per preparare liquidità, perché poi il problema è di liquidità, cioè le nostre banche sono patrimonializzate, non hanno problemi di carattere economico, ecco, a livello di liquidità finora non abbiamo avuto nessun tipo di problemi. È chiaro che da un sistema che ha 13 miliardi e mezzo di investimenti, se partono 2 miliardi è chiaro che insomma è una percentuale non di poco conto, quindi non ci sono problemi immediati. È chiaro che in futuro dobbiamo pensare anche a modificare la nostra struttura bancaria e finanziaria, attirare comunque investitori, guardare più a mercati internazionali che a mercati italiani, essere meno italiani dipendenti, ecco. E veniamo a proposito proprio all'accordo bilaterale con l'Italia, perché è ancora fermo? È ingiustificato ed è ingiustificabile questo atteggiamento. Io sono anche molto amareggiato da tutto questo, perché noi crediamo che un accordo che peraltro, parlo delle doppie imposizioni, che recepisce l'articolo 26 del modello OCSE, così come previsto a livello internazionale, o l'accordo finanziario che prevede una solida e rigorosa collaborazione fra San Marino e l'Italia nella lotta al riciclaggio, fra i due istituti centrali, Banca d'Italia e Banca Centrale di San Marino, è prima di tutto un interesse italiano che venga firmato. Già da luglio erano pronti alla firma questi due accordi. Questi ritardi veramente ci amareggiano molto, anche perché creano uno stato d'animo nei confronti dell'Italia che è assurdo sotto certi aspetti. Che cosa concretamente andrà a cambiare nel momento in cui questo accordo sarà firmato? Ma quando questi due accordi saranno firmati, prima di tutto ci sarà una normalizzazione dei rapporti, si attiverà una collaborazione organica fra i due paesi per quanto riguarda lo scambio di informazione, la collaborazione. Entrerà in vigore quell'accordo che abbiamo già sottoscritto di cooperazione economica. Poi ci sono oltre 6.500 italiani frontalieri che lavorano quotidianamente a San Marino, vengono a San Marino. Questo accordo definisce bene qual è la loro situazione fiscale. È stato presentato da un giudice di San Marino, la dottoressa Rita Vannucci, un provvedimento sul segreto bancario. Questo l'ha presentato il governo ed è un provvedimento che è già stato approvato dal Congresso di Stato, che sarebbe il Consiglio dei Ministri. È già sta andato in prima lettura, in dicembre verrà approvato definitivamente in seconda lettura. È un provvedimento che dice che in presenza di accordi sullo scambio di informazioni non può essere ostentato il segreto bancario. Se un accordo prevede uno scambio di informazioni, tu non puoi dire Io non ti posso dare questi dati perché c'ho il segreto bancario. Ho avuto grosse evoluzioni, già la rogatoria internazionale presuppone un vulnus, no, nel segreto bancario, la collaborazione antiriciclaggio è un altro. Oggi con l'articolo 26 del modello OCSE, il G20 lo ha detto chiaramente che dalla primavera del 2010 chi non è in regola con lo scambio di informazioni sarà inserito definitivamente nella lista nera dell'OCSE con tutti gli effetti negativi che ne derivano. Quindi San Marino si sta armonizzando. Il segreto bancario rimane, però è evidente che cambia. Nella seconda parte il ministro Gabriele Gatti ci farà anche l'identikit dei 300 italiani falsi residenti che presto saranno cacciati da San Marino. Storielle. Storiacce. Volti noti dello spettacolo o atleti famosi, il ministro delle finanze di San Marino lo ammette tranquillamente. Tanti VIP ci hanno chiesto la residenza solo per comodo, ma non l'hanno ottenuta. L'avevano invece ricevuta, ma ben presto la perderanno più di 300 italiani già identificati dal governo del Titano. Gabriele Gatti, ministro delle finanze di San Marino, traccia il loro identikit. Parla delle voci che si rincorrevano su Delta, Cassa di Risparmio di San Marino, anche prima che un'inchiesta della procura di Forlì le decapitasse, e parla della tentata scalata al Titano da parte di Giampiero Fiorani. C'è stato un altro provvedimento importante che a San Marino è stato di recente introdotto, quella legge che obbliga gli azionisti delle società anonime a dichiararsi. Chi ha una società anonima, parliamo del passato perché oggi le società anonime nell'ultimo anno ad esempio non sono più state concesse, in ogni caso chi ha una società anonima deve dichiarare presso un notaio il nominativo reale, il beneficiario effettivo di quella società, e in caso di richiesta di informazioni di rogatorio internazionale il notaio è tenuto a collaborare, quindi a dare i nomi della società anonima. Ecco ministro, si è parlato tempo fa di un piccolo giallo di circa 4.000 residenti che San Marino non trovava. Sono venute fuori queste cifre da parte dell'Agenzia delle Entrate, poi noi abbiamo chiesto un incontro, lo abbiamo avuto Roma, è emerso che da quella cifra erano stati inseriti ad esempio anche dei cittadini sammarinesi che magari avevano un'abitazione in Italia, oppure erano stati inseriti dei coniugi di sammarinesi, che poi ci possono essere anche alcuni cittadini italiani che hanno avuto la residenza e che non risiedono effettivamente a San Marino. Questo noi stiamo facendo anche un censimento generale perché queste cose vanno regolarizzate. Di che ordine di grandezza potrebbero essere gli italiani che non risiedono effettivamente? Parliamo di situazioni irregolari, quindi. Sì. Ma credo che siamo sull'ordine di 300-350, insomma, quelli che... E una volta che questo vostro censimento sia arrivato a termine, si tratterebbe, diciamo, di casi irregolari. E quindi a quel noi punto... gli toglieremo la residenza. Dei provvedimenti di revoca della residenza li stiamo facendo, la nostra gendarmeria sta controllando, quindi è una cosa normale questa, non è un provvedimento straordinario. Questa linea di sicuro più dura, più severa rispetto agli anni passati, in qualche modo è effetto anche dell'onda lunga che il terremoto dello scorso maggio con gli arresti e tutta la bufera che c'è stata intorno alla Cassa di Risparmio ha avuto? Sicuramente quella ha segnato moltissimo alcune scelte, ha velocizzato alcuni provvedimenti, in questo caso ci sono state delle velocizzazioni. E veniamo al caso Delta. Che cosa ha rappresentato per voi? Ho usato la parola terremoto. È un termine purtroppo giusto. Beh, Delta è una banca italiana, bolognese, che ha 1.000 dipendenti. E lì c'era questa partecipazione, questo era un po' partito da questo, che la Cassa di Risparmio di San Marino era autorizzata a detenere il 30%, e poi è venuto fuori invece che aveva il controllo della maggioranza delle quote di Delta. Questo è stato l'elemento, diciamo così, che ha fatto scattare una serie di provvedimenti e il commissariamento di Delta. Oggi la Cassa di Risparmio e i commissari che sono stati nominati da Banca Italia hanno la responsabilità di Delta, quindi i commissari di Delta stanno procedendo alla vendita delle quote o dei rami d'azienda di Delta ad altri istituti. C'è un progetto con Intesa? Sì, c'è una trattativa privata, contiamo che possa andare in porto nel giro di pochissimo tempo, insomma, credo che siamo ormai alla fase conclusiva della trattativa. Quando ci sono stati gli arresti, le reazioni sono state quelle di dire a San Marino tutti sapevano quello che avveniva, è così? Francamente le dico questo, io... si sentiva nell'aria che c'era qualche cosa, che c'erano alcuni problemi proprio su questo istituto di Delta. Io faccio politica da parecchio tempo e nessuno di noi nella realtà aveva avvertito questa situazione così preoccupante. Quindi quando nella primavera scorsa è scoppiata la bomba Delta, chiamiamola così, è stato un po' un fulmine a ciel sereno. È chiaro una cosa, un accordo fra Banca Centrale e Banca d'Italia avrebbe reso possibile una maggiore cooperazione e un maggiore controllo per quanto riguarda gli investimenti di un istituto in un altro istituto dell'altro paese, quindi probabilmente con gli accordi non saremmo arrivati a certe situazioni. Tra gli atti di quell'inchiesta ci sono anche le dichiarazioni di personaggi vari coinvolti che però ammettono che a un certo punto San Marino aveva sostituito la Svizzera come approdo di soldi frutto di evasione o di altre attività illecite. Se noi guardiamo l'ammontare dei depositi di San Marino ci rendiamo conto che non è proprio così, perché i depositi sammarinesi, i nostri istituti sono molto modesti, non è assolutamente vero che San Marino abbia preso il posto della Svizzera sotto per certi aspetti. È chiaro che probabilmente San Marino, la cassa di risparmio, ha fatto degli investimenti negli ultimi anni in una banca italiana molto ingenti, probabilmente anche da un punto di vista di politica economica della banca probabilmente sovradimensionati a quelle che erano le sue possibilità. Questa inchiesta partì anche con il fermo di un portavalori che trasportava 2,5 milioni di euro in contanti verso San Marino. Tutti i nostri depositi liquidi li portiamo immediatamente in Italia, non abbiamo noi un cavò, non abbiamo una banca centrale che ha liquidità, noi la liquidità la portiamo in Italia e quando ne abbiamo bisogno la riportiamo in Italia. Lì c'era allora un problema di codici, non era un problema di traffico di valute. Non è però l'unico episodio che in qualche modo viene contestato intorno all'immagine di San Marino. Si parla anche dei classici spalloni che possono essere più o meno VIP, che possono andare in auto, portavalori o anche si è parlato di elicotteri a proposito di un incidente, di un episodio che ci fu qualche mese fa. Sono delle sciocchezze, guardi queste, io le dico sinceramente, voglio dire, San Marino è una realtà dove se noi la guardiamo, è per fortuna che viene il Fondo Monetario, vengono proprio degli organismi di valutazione, ritornerà il Moneyval adesso in primavera e vedono cos'è San Marino. San Marino ha dei controlli talmente capillari su certe cose che nessun istituto italiano ce l'ha, ma nel modo più assoluto. Ci aiuti a capire qualcosa in più del profilo di questi 300 italiani falsamente residenti a San Marino? Piccoli imprenditori, manager? Direi di sì, ma anche funzionari privati. Io sono convinto che in Italia ci sono degli evasori che non hanno niente a che fare con San Marino. Noi ad esempio negli anni ci sono stati tanti cosiddetti VIP che volevano venire a risiedere a San Marino, no? Non so, attori o persone del mondo dello sport, dello spettacolo, eccetera. Ecco, noi sotto quell'aspetto non abbiamo mai concesso residenze, perché come non abbiamo voluto la casa da gioco, non vogliamo delle residenze di comodo, no? Perché queste palesemente sarebbero residenze di comodo. D'altra parte noi siamo abituati a fare dei bilanci che, a parte quello di quest'anno e del prossimo anno, che purtroppo saranno in passivo. E quest'anno più o meno a quanto potrebbe ammontare il passivo? il passivo 2009 dovrebbe chiudere con circa 45 milioni di passivo e quello del 2010 sui 43 milioni. Tempo fa si è parlata ancora di San Marino, della banca del Titano, a proposito di un tentativo di scalata da parte di Fiorani. Era stata aperta anche un'inchiesta qui a Milano, parallela alle vicende più note sulle scalate bancarie. Io in quel momento ero l'opposizione e ho denunciato queste cose, ho fatto anche delle polemiche. Ma allora si disse che c'erano stati degli approcci, che alcuni uomini politici avevano contattato il finanziere per l'acquisizione di questo istituto, poi in sostanza non si è mai concretizzata nemmeno una trattativa.